nella tua città. Con le armi nel van faccio rap, glielo do alle fan, sono l'umertà. Man tipo la test, drogamante in trans, nel sistema un pack, sono il crack dalla strada e club. Young trap, dritto da T.A., mass Afghanistan. Faccio un cut, ferro di fast mac, non faccio distract. Faccio il business plan, sono hard as fuck. Droga fan fatal, coca rap, divento una star. Sono grasso come Peter Griffin, la mia troia è Lois. Aprivamo bacchi con i soldi come affari tuoi. Posto video di torture, scrivo amo troppo noi. Esperienze post mortem, enter the void. La mia merda è culto, il mio zoccolo duro, sono i papa boys. Non è trap, è voglia di far sesso come Sigmund Freud. 10k al mese, spingo come un Boeing, tiro come un Hawk. Prosciugo i tamoili, in Puglia c'è lo stesso murder raid di a noi. Non è come da voi, killer dell'hip hop, investive writer, gambizzo i b-boy. Vero e proprio sciacallo. Siamo degli avvoltoi, ho fatto passi da gigante. Dalle grotte tabloid, sono in bagno con Achille e Laura a poppare Rolls Royce. Al banco del bar con Ginko che scolulla Freud. Cadenza di T.A., attitude Detroit. Vuoi fottere con me, ti fai una croce di cazzi tuoi. Young trap nella tua città, con le armi nel van. Faccio rap, glielo do alle fan, sono l'umertà. Man tipo la dance, drogamante in trans, nel sistema un pack, sono il crack dalla strada e club. Young trap, tutto da T.A., mass Afghanistan. Faccio un cult, ferro di fast mac, non faccio distract. Faccio il business plan, sono hard as fuck. Droga fan fatal, coca rap, divento una star. Ho fatto gol, sto bevendo grog, sto vedendo il log di Landog. Io non leggo Vogue, voglio farmi un Porsche, un autosport. Trappo come Kid, scrivo come Mogol di Diego Go. Aspettando Godot, shall we go, let's go. Testo incomprensibile, non vado su TikTok. Sto con Cinco, sembriamo Johnny Knoxville e Steve-O. Sul tuo spot, Nico Mock, Mock Assort. Porti il commerciale anche se vogliono il top. Porti il commerciale anche se vuoi fumarti un bong. Bevo come al malato, ho la faccia che un QR code. Pantalone largo, non rispetto mai il dress code. Parlo come mangio e non mangio da un po'. Se mi tocchi perdi tutto, il tasto rosso late ball. Solo con le MD mi sento in love. Non mi metto nei tuoi panni perché a me entrerebbero crop. Non è il mio anno, è la mia belle epoca, è Geoff Gold. Young trap nella tua città, con le armi nel van. Faccio rap, glielo do alle fans, sono l'umertà. Man tipo la dance, drogamante in trans, nel sistema un pack, sono il crack dalla strada e club. Young trap, tutto da T.A., mass Afghanistan. Faccio un cult, ferro di fast mac, non faccio distract. Faccio il business plan, sono hard as fuck. Droga fan fatal, coca rap, divento una star.